Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus, come sempre alle 18 vi sarà anche l'appuntamento con i dati della Protezione Civile, purtroppo, ma spero veramente di sbagliarmi, le indicazioni che sono arrivate oggi dalle dichiarazioni del Presidente della Regione Lombardia Fontana non sono positive, nel senso che noi veniamo da 4 giorni di calo continuo nel numero di nuovi contagiati. Speriamo che, insomma, Fontana si riferiva solo alla Lombardia, però insomma l'allarme è stato abbastanza netto su un casi in aumento. Nel frattempo la situazione sugli altri paesi, di cosa ci occuperemo oggi? Beh, ci occuperemo del Consiglio Europeo di questa sera, nel frattempo c'è anche il G20, il Consiglio Europeo, che dove si andrà a un tentativo di mediazione tra le posizioni di 8 paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, poi Portogallo, Grecia, Irlanda e Lussemburgo, che chiedono un meccanismo diverso nell'utilizzo del MES e che comunque chiedono che non vi sia la condizionalità nell'utilizzo dei fondi del meccanismo di salvataggio europeo, e la posizione dei paesi del nord, visto anche l'Austria oggi, che invece sono contrari a quella che si chiama la mutualizzazione del debito, cioè che il debito venga fatto su base europea, o comunque sono contrari al fatto che vengano elevati i limiti, le condizioni presenti nel MES, che erano fatte per un paese, qualora un paese avesse avuto talmente tanti problemi di finanza pubblica da richiedere l'aiuto del fondo salva stati, in quel caso c'erano tutto un insieme di condizioni per ottenere i soldi, che ha un senso quando tu sei un paese, il caso più noto, l'unico, quello greco, che aveva truccato i conti in quel caso, o comunque hai male amministrato le tue finanze, chiedi soldi europei e giustamente chi te li dà dice va bene, però poi fai quello che diciamo noi, il famoso commissariamento. In questo caso l'obiezione dei paesi che hanno sottoscritto il documento è che non c'è un problema di Francia o Spagna o Italia nell'aver male amministrato i conti, avere sforato, fatto saltare il deficit e debito. Qui c'è una guerra in corso, un'epidemia in corso o pandemia che sta facendo saltare tutto, quindi non si può trattare il ricorso all'aiuto come in tempi normali. Le ipotesi, come dicevamo ieri, sono varie, sia l'idea appunto di un fondo a cui tutti i paesi aderiscono e chiedano soldi, oppure arrivare a titoli, a un debito perpetuo, come ricordava ieri anche il professor De Aglio, e cioè quello che fu fatto anche dal fascismo dopo la crisi del 29, e c'è un debito che sostanzialmente tu non devi ritornare o ritorni in un periodo così lungo, 50 anni, che di fatto diventa devi pagare solo gli interessi e non devi ritornare il debito a una scadenza a breve. Esiste nel passato appunto il tema del debito perpetuo, cioè quindi del prestito, scusatemi, perpetuo, titoli che hanno una scadenza così lunga da rappresentare di fatto un prestito quasi a fondo perduto, cioè ci paghi solo gli interessi. Lo dico perché io spero che il ministro Gualtieri, adesso non voglio far critiche così, non è periodo, ho trovato un po' timido, io spero che l'aver trascorso molti anni a Bruxelles non gli abbia fatto perdere di vista quello che è il suo paese d'origine e le necessità che ha l'Italia in questo momento, perché io parlo dell'Italia, abbiamo tutti letto con molta attenzione, sapete che per me Mario Draghi è un mito, l'ho detto in tutti i modi, quello che ha scritto sul Financial Times Mario Draghi, a mio avviso leggendo quelle parole ti accorgi ancora di più di quanto ci manca uno come Draghi, con la visione di Draghi, che sostanzialmente ha detto la cosa che tutti continuiamo a ripetere, ma l'ha detta insomma da un pulpito ben diverso, ha detto è il momento in cui gli stati devono assorbire il debito privato, cioè nel senso tu devi andare, non puoi pensare che questa crisi, questo crollo dei PIL possa essere assorbito dal settore privato. Deve intervenire lo Stato, quindi il debito privato si deve trasformare in debito pubblico. La dico in maniera un po' semplicistica, ma sostanzialmente, e lo ricorda a tutti. Comunque il G20 sta parlando, adesso parleremo di questo, sul fronte delle notizie che... No, non ho detto che non abbiamo gestito male le finanze con un debito al 130% del PIL e il deficit, però ho detto semplicemente che non si può trattare in questo momento la richiesta di aiuto che arriva dai vari paesi come se fosse un problema interno perché hanno speso male i soldi e vanno in crack finanziario. Qui c'è un tema leggermente diverso, è chiusa l'attività produttiva, buona parte dell'attività produttiva per il coronavirus. Ci sono migliaia di morti, decine di migliaia di contagiati. Oggi dalla Spagna arrivano notizie drammatiche, 10.000 casi in più rispetto a ieri. Devo dire la verità, avendo la serie storica, nemmeno l'Italia è riuscita mai a fare in queste settimane 10.000 casi da un giorno all'altro. Il dato più forte che ho, e spero non venga smentito oggi, è quello di sabato scorso, quando abbiamo totalizzato casi ufficiali positivi, nuovi, aumento di nuovi positivi di 4.800. La Spagna ha fatto 10.000 casi in più in un giorno, è passata a 56.000 casi in tutto, cioè sostanzialmente dopo la Cina, adesso c'è l'Italia, abbiamo gli ultimi dati, li avremo al 18, il dato di ieri era 74.000 casi in tutto, tra appunto... Poi ci sono che includono sia i positivi, i deceduti, che i guariti e quelli che restano positivi. Però al secondo posto ci sono gli Stati Uniti, che hanno visto un'altra crescita enorme, 69.000 casi. È arrivata adesso una notizia: a New York si sono registrati in meno di 24 ore 100 morti. Il bilancio delle vittime sale a 385 solo nella città di New York, dove ci sono 37.250 casi, 7.000 casi in più in meno di 24 ore, 100 decessi in meno di 24 ore. Dicevo, poi c'è la Spagna con 56.000 casi e 4.090 morti, perché sono cresciuti anche, ahimè, i deceduti. La Gran Bretagna teme uno tsunami di ricoveri, lo ha detto il numero uno dell'associazione che rappresenta il manager del sistema sanitario britannico, NHS provider, si chiama Chris Hobson, e ha detto: gli ospedali di Londra sono già alle prese con un'esplosione di ricoveri legati al coronavirus e si attende nei prossimi giorni uno tsunami continuo di casi gravi. Dunque, qualcuno mi dice 6.500, no, i nuovi casi che io da un giorno all'altro sono... Comunque, al di là di questo, la Francia poi li pubblicherà più tardi, il Regno Unito ha 9.640 casi con 470 morti, purtroppo la cifra è identica a quella dell'Italia quando avevamo 9.100 casi lunedì 9 marzo e 460 deceduti. Lo dico perché è impressionante vedere come i paesi che erano indietro a noi stiano ripercorrendo giorno per giorno, ahimè, lo stesso andamento. Qualcuno mi chiede: i morti in Francia sono 1.333, ma la Francia manca ancora il dato della sera con 25.000 casi. Anche in questo caso faccio notare che la cifra dei morti in Francia con 25.000 casi, ahimè, è quasi identica, di un centinaio di casi in meno rispetto a quella che registravamo noi quando avevamo casi analoghi, cioè tra sabato e domenica 15 marzo. Allora, questi i temi. Le borse come vanno? Le borse vanno dal punto di vista dei mercati piatta Milano, Parigi più 1,1, Francoforte più 0,20, Dow Jones più 4,70, erano forti anche le altre borse europee, poi hanno ritracciato, Londra più 0,90, lo spread bene perché ci sono state varie indicazioni, lo spread è scivolato sotto la soglia dei 170 punti, il rendimento è andato a 130, all'1,32%, scusatemi, questo anche grazie al fatto che la Banca Centrale Europea ha dato oggi via libera al programma di acquisto di titoli da 750 miliardi e acquisterà titoli con le scadenze più ampie possibili, dai 30 giorni ai 30 anni, con trattamento uguale rispetto agli investitori privati, e i limiti all'acquisto delle obbligazioni sono il 33% per ciascun paese dell'area euro, ma possono essere rivisti nella misura necessaria a rendere la sua azione proporzionata ai rischi. Quindi dice, per adesso noi andiamo fino a acquistare fino al 33% per ogni paese, ma possiamo ampliare anche questa cifra. Ieri ricorderete che la Federal Reserve ha annunciato acquisti illimitati, le borse si fanno notare che sono positive, anche perché il G20 oggi ha annunciato che verranno iniettati 5.000 miliardi di dollari nell'economia mondiale, verranno iniettati per superare l'impatto del coronavirus. E di questo parleremo in apertura. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, mi scrive un ascoltatore, basta con sto tono funebre. Guardi, il tono è quello che è, poi voglio dire, cerchiamo di non dare maggior pesantezza, ma non possiamo neanche far finta di... no, cioè, stiamo il tono funebre è anche funebre, mi sembra il caso, ma insomma il tono preoccupato è sia per i casi che dovrebbero arrivare, ma anche per questa difficoltà a livello di Bruxelles nel far capire che siamo di fronte a un evento eccezionale. Cioè, a me sembra veramente tutto assurdo in questo periodo, ma anche assurdo che ci siano dei paesini, paesi minori, non voglio essere offensivo, Olanda, Austria, Finlandia, con dietro forse la Germania, che non capiscono che tu devi trovare un piano enorme. L'America annuncia 2.000 miliardi, poi non può dire abbastanza o non abbastanza. Qui stiamo a ragionare se i paesi che dovessero ricevere l'aiuto poi però devono essere trattati, commissariati o comunque essere poi strangolati dopo da un insieme di regolamenti e di obblighi, e a quel punto non è un aiuto, oppure se si vuole fare veramente un piano enorme in cui, come dice Draghi, il debito privato che ci sarà, che aumenterà, viene assorbito dal debito pubblico. Allora, nel frattempo, giusto per far capire anche i paesi del nord, che mi ha scritto un'ascoltatrice tedesca, una medica, dice, ah, ieri lei e De Aglio avete fatto questa battuta, forse mancano ancora casi. Ah, no. Allora, la battuta poteva essere cinica, abbia pazienza, però la sensazione è che nel nord Europa, strano perché l'Olanda tra l'altro di casi ne ha parecchi, non si capisca ancora l'impatto economico, oltre che sanitario e oltre che sulle vite umane, di questa pandemia, ce l'abbiamo. Allora, dopo un po' la battuta sarà pure cinica, ma la sensazione, guardi, non è nemmeno una battuta, lo dico all'ascoltatrice che mi ha scritto da Monaco di Baviera, perché se lei va indietro nel tempo e guarda quello che era l'atteggiamento europeo verso l'Italia quando i casi erano solo in Italia ed era molto più ma forse avete sbagliato qualcosa, come i casi sono esplosi in Spagna e Francia e anche in Germania, che la Germania conta al momento 40.000 casi, in una settimana abbiamo sospeso il patto di stabilità europeo, roba impensabile. Allora, è chiaro che più la cosa è condivisa anche nella sciagura, evidentemente più la cosa è sentita. Questo volevo dire, non volevo augurarmi nuovi casi in Germania o soprattutto in Olanda e Finlandia, ho solo detto che la sensibilità, fatti alla mano, è molto legata a quello che capita poi nel tuo paese, magari pensando che nel tuo paese non possa capitare. Avete visto cosa è successo in Francia e in Spagna, il premier Sanchez è sotto una marea di polemiche per aver autorizzato le manifestazioni dell'8 marzo, più di 100.000 persone per la festa della donna, quando qui avevamo già chiuso Lombardia e le regioni. E Macron continua a essere criticato per la scelta di fare le amministrative domenica, e poi chiudere il paese lunedì. Allora, evidentemente, finché i casi non esplodono, la sensibilità politica non si realizza. Questo lo posso dire senza essere offensivo. Allora, vediamo quello che succede negli Stati Uniti, perché mentre la Federal Reserve dice non sto finendo le munizioni, Però il numero uno dice: gli Stati Uniti potrebbero andare in recessione. Sono schizzate le richieste di disoccupazione nella scorsa settimana. Praticamente sono state 3,283 milioni di unità, cioè 3.283.000, adesso capisco anch'io, 3.283.000 richieste di disoccupazione la settimana scorsa negli Stati Uniti contro alle 282.000 della settimana precedente. Quindi stiamo parlando di 10 volte, 14 volte tanto. No, giusto per far capire che non è... ancora, veniamo adesso all'intervento proprio sul tema di questa sera, del Consiglio Europeo di questa sera. L'Italia è favorevole allo strumento dei Covid bond, dei Corona bond, come li abbiamo chiamati, lo ha ribadito il Premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato, aggiungendo: questa è una battaglia che in Europa o si vince tutti assieme o si perde tutti assieme. L'Italia continua a lavorare alla creazione di strumenti di debito comuni dell'Eurozona, che possano finanziare gli sforzi messi in campo dai governi e costruire un'adeguata linea di difesa. Si è ragionato anche in questi giorni di Corona Bond. Non è una formula linguistica che mi fa impazzire. Propenderei forse, se devo dare un suggerimento, per European Recovery Bond, ma non è un problema di lessico. Nelle ultime ore ho portato avanti un'iniziativa condivisa dai leader di altri 8 Stati membri: Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna. Ieri abbiamo inviato una lettera, che ho sentito per telefono, al Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, con la quale abbiamo espresso un chiaro punto di vista. L'Europa può affrontare questo shock soltanto facendo ricorso a misure straordinarie, a misure eccezionali. Queste misure devono essere prioritariamente dirette a contenere al massimo la diffusione del virus e a rafforzare i sistemi sanitari dei singoli Stati membri. Devono essere in grado di salvare la produzione e la distribuzione di beni e servizi vitali all'interno dell'Unione Europea e di contrastare efficacemente gli effetti negativi di questa crisi senza precedenti. Questa è una battaglia che si vince tutti insieme, altrimenti a perdere saremo tutti. E poi Conte ha confermato che dopo i 25 miliardi stanziati per il mese di marzo vi saranno altri 25 miliardi nel DL di aprile. Guardate, allora, la somma è sicuramente non sufficiente se pensiamo all'impatto nel medio termine di questa epidemia, però come tampone faccio notare che a marzo l'Italia ha stanziato una manovra finanziaria solo per un mese, perché le nostre manovre sono sui 30 miliardi, 32 miliardi, abbiamo fatto una manovra che di solito vale per un anno solo sul mese di marzo, ne faremo quasi un'altra nel mese di aprile, e lì poi come deficit ne ha imbarcato un po'. Ecco perché, dopo aver imbarcato deficit, è vero che non c'è il patto di stabilità, però devi avere soldi non a deficit, oppure come diremo adesso, un debito così perpetuo, un titolo così lungo che rappresenta di fatto un pagherò. Ma Conte poi ha annunciato che ha chiesto di attivare i pagamenti della cassa integrazione in deroga, che appunto su tutto il territorio nazionale, su tutti i settori produttivi, da lunedì 30 marzo i datori di lavoro possono far domanda, il bonifico arriverà direttamente sull'IBAN del lavoratore. Dico che la cassa integrazione come strumento, perlomeno un ottimo strumento italiano, anche perché appunto non ha questi problemi burocratici che altre cose hanno in sto cavolo di paese. E tra l'altro averla estesa in deroga a tutti, anche a chi è un dipendente, mette un po' in sicurezza quei lavoratori. Certo che poi c'è il tema delle parte IVA e degli stagionali, degli autonomi, dove ci sono invece 600 euro, l'abbiamo spiegato ieri, però almeno mette un po' di sicurezza, perché di solito in cassa integrazione in deroga vai a 70 o dipende dalla fascia di reddito, al 60% se hai un reddito più alto, fino, se non ricordo male, a 1300 euro al mese. Che mi rendo conto su redditi più alti essere poco, però è almeno un tampone. Dopodiché questo viene finanziato, se non ricordo male, costa circa 7 miliardi in manovra finanziaria la cassa integrazione in deroga, però sono tamponi che tu puoi mettere per non far crollare tutto a marzo ed aprile, poi ti servono i soldi per incidere direttamente nei vari settori. Per esempio, anche se tu iniziassi a dire per il settore turistico alberghiero, come era la proposta, diamo dei bonus o permettiamo agli italiani che faranno le vacanze in Italia di scontare questo a livello di dichiarazione dei redditi, quindi andare in detrazione d'imposta su questo, sono soldi che non entrano nello Stato. Se tu dovrai rimpinguare quelli che sono i mancati fatturati e avere delle forme di ammortizzazione sociale, sono soldi che darà lo Stato. Ecco perché poi ti serve una massa ancora più grande di soldi non a debito o a debito lunghissimo. Allora, il Confcommercio sostiene che il calo dei consumi, inteso come commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni, potrebbe toccare i 52 miliardi nell'ipotesi che si possa riaprire il paese solo a inizio ottobre. Io spero che sia un calcolo oggettivamente dato così come estrema razio, perché a ottobre spero che il paese sia già aperto, spero perlomeno. E allora invece sulla Coldiretti oggi fa notare, poi non mi dice perché è un tono così, che c'è anche un problema sul fronte maltempo. L'ondata di gelo tardivo sta creando danni all'agricoltura. Sentiamo Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, al microfono del nostro Marco Mancini. Purtroppo è la cronaca di una situazione che ci si aspettava, nel senso che l'inverno è decorso in maniera troppo calda, parliamo del secondo inverno più caldo dal 1800, e ci si aspettava che ci potesse essere questo ritorno appunto di freddo. Abbiamo avuto un mese di anticipo soprattutto sulle primizie, con l'anticipo anche delle fioriture. Ieri e oggi questo abbassamento delle temperature, con minime anche al di sotto di 5-6 gradi sotto lo zero, stanno veramente devastando e producendo gravi danni nelle campagne, da una parte su quelle che sono le coltivazioni in atto, quindi carciofi, asparagi, finocchi, cicorie, piselli, cioè tutto quello che è presente in campo che sta venendo raccolto man mano che viene pronto, e poi invece abbiamo le fioriture di quelli che dovrebbero essere raccolti di questa primavera, di questa estate, che stanno subendo dei gravi danni, delle gravi perdite dal punto di vista delle fioriture per quello che riguarda appunto queste gelate. E questo si aggiunge poi a una questione appunto di carenza idrica. Sì, la faccenda della carenza idrica purtroppo ce la portiamo dietro dall'inverno, che si diceva prima troppo caldo, ma anche poco piovoso, per cui da questo punto di vista l'unica cosa positiva è che sta nevicando un po' in montagna, ma in pianura e nelle altre parti del paese assolutamente non ci sono risorse idriche sufficienti. Abbiamo gli invasi soprattutto nel meridione, ma anche nel centro, abbastanza vuoti, e questo crea enorme preoccupazione. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Vabbè, giusto per sorridere, no, c'è una buona notizia che è appena stata battuta: le tariffe dell'elettricità e del gas caleranno da aprile in forte ribasso, riduzione del 18% per l'elettricità e del 13% per il gas per la famiglia tipo 1 in tutela, e questo come conseguenza delle basse quotazioni delle materie prime e legate a una decisa riduzione dei consumi anche a causa dell'emergenza Covid-19, quindi da aprile saranno meno 18% elettricità e meno 13% gas. Allora, continuiamo a ragionare su che cosa dovrebbe fare l'Europa, non tanto la BCE, che ha annunciato che potrà acquistare titoli di Stato e bond emessi da enti internazionali senza limiti nel suo nuovo programma straordinario da 750 miliardi, quindi non dovrà rispettare più, l'ha già detto, ci sarebbe il limite del 33% per i titoli di Stato e del 50% per i titoli sovranazionali, però non sarà più così, nel senso che non esisterà più questa soglia del 33%. È un'azione senza precedenti questo, perché questo vuol dire che tecnicamente nel caso di un'emissione di obbligazioni europee la BCE potrebbe comprare l'intero importo al 100%, cioè, e quindi garantendolo. Ora, il problema, tra l'altro, la BCE, secondo varie indiscrezioni, sarebbe stata disponibile ad attivare il piano antispread OMT, quello lanciato da Draghi, mai utilizzato, però insomma poi si è fermata. Questa è una buona cosa, perché la BCE a questo punto elimina ogni vincolo nell'acquisto di titoli. Ringrazio il professor Gianni Toniolo, che insegna storia economica alla LUISS. Buonasera, professore. Buonasera a tutti. E noi continuiamo a unire il racconto della realtà, diciamo, economica con le proposte che arrivano, diciamo, in chi sta osservando un periodo mai visto prima. Ieri ne abbiamo parlato con il professor De Aglio, che ricordava anche la proposta di Romano Prodi di Quadro Curzio, nel dire: attenzione, cercate, meglio avere a questo punto un debito perpetuo, un titoli, la proposta di titoli perpetui, cioè andare, poi ce lo racconta meglio lei, andare, se ho ben capito Toniolo, a emettere un debito che però non devi pagare né a un anno, né a 5 anni, né a 10, ma o che ha una scadenza lunghissima, oppure che appunto è perpetuo, come si fece dopo la crisi del 29, e si pagano solo gli interessi. Ho capito bene? Il problema è quello, come diceva lei, di trovare tutti i modi possibili per uscire poi da questo forte indebitamento, che giustamente faremo nei prossimi mesi, nel modo più stabile possibile. Questo è, quindi non credo che ci sia un solo strumento da poter utilizzare come pallottola d'argento per risolvere tutti i problemi, quindi bisogna avere una gamma più ampia possibile di strumenti. Questo un po' tra questi può esserci certamente l'idea di allungare sostanzialmente la scadenza dei debiti, che naturalmente debiti restano, però un conto è se bisogna rinnovarli a scadenze brevi, un conto è se li rinnoviamo tra decine d'anni, oppure mai, perché l'Italia ha già avuto dei debiti cosiddetti perpetui o irredimibili, giusto. Ma erano arrivati dopo la crisi del 29? Perché... No, erano una cosa che l'Italia aveva dai tempi immediatamente dopo l'unità, insomma, era la famosa rendita italiana, che era molto apprezzata da... Cioè è un debito che, in cui chi te lo compra non vuole poi tutti i soldi indietro, ma si limita a guadagnare sugli interessi che paghi, ho capito bene? Chi lo è un debito negoziabile in borsa, ma lo Stato non lo rimborsa mai, in compenso però ti paga una rendita ogni anno, come dire, io mi pago un tot e ogni anno ho il 5%, era la rendita italiana del 5% sul valore nominale, e quindi uno ha un reddito. Se ha bisogno del capitale, perché per qualche emergenza o perché non vuole più tenere questo, può rivenderlo in borsa a un prezzo di mercato. Infatti, okay, adesso quindi questo è chiaro, no, perché mi mancava il tema. Sì, ma io ho messo, poniamo, 10.000 euro nel debito irrimedibile italiano, e prendo gli interessi su questi 10.000 euro. Se volessi però avere questi 10.000 euro, siccome non me li ripaga l'emittente, potrei collocarlo in borsa e magari ottengo la differenza rispetto agli interessi, di sconto gli interessi futuri, e ottengo, non so, 9.000 euro, giusto? Ho capito bene? Per esempio, oppure 1.100, perché ci fu un momento nel 1907 in cui questi titoli erano così richiesti così che ci guadagnavo anche a vendere addirittura, in borsa, cioè. Addirittura il tasso di addirittura lo Stato li ridusse volontariamente dal 5 al 3,75% il tasso di interesse, certo. Quindi sono dei titoli che di per sé possono avere un interesse finanziario. Allora, professor Toniolo, dopo il meteo, vorrei capire appunto perché bisogna fare questo debito, cioè perché, come sempre, non basta in questo caso la parte finanziaria di liquidità. A chi mi dice state privilegiando i possessori di la rendita da capitale, no, non ha capito nulla, questi sono soldi che andrebbero allo Stato italiano, non c'entrano niente i grossi patrimoni chi vive di rendita, che andrebbero allo Stato italiano e che lo Stato italiano non dovrebbe, non solo l'Italia, anche gli altri paesi, non dovrebbe ridare, dovrebbe solo pagare gli interessi sul debito. Perché quello che è chiaro a tutti è che se in questo momento dall'Europa arriva una decisione per cui sì, hai, puoi accedere a centinaia di miliardi, ma poi li devi ripagare in un tempo relativo, dopodomani le agenzie di rating iniziano a penalizzarti perché dicono: ah sì, e tu come farai a ripagare questi soldi? E non è un problema di ripagare in questo momento. L'attività economica persa da molti settori, lo dico all'ascoltatore, non torna più in questi mesi. Altra cosa sono altri settori, ma molti settori non avranno il calo di fatturato, ormai l'hai portato a casa. Comunque, meteo e pubblicità. Focus Economia. Allora, professor Toniolo, faccio l'avvocato del diavolo e dico: va bene, ma mi fa notare un ascoltatore che il debito perpetuo, o titolo perpetuo irredimibile, lo fece Cavour con i Rothschild per fare l'unità d'Italia, anche le ferrovie e quant'altro. Vabbè, ma lei ci ha spiegato molto bene perché e può essere quasi conveniente, cioè chi lo emette questo debito, lo Stato, non ti ridarà mai i soldi che ti ha chiesto in prestito, ma tu che li presti i soldi hai gli interessi ogni anno e poi puoi vendere questa obbligazione sul mercato. In alcuni casi, se i rendimenti sono alti, c'è anche un interesse a comprarle, quindi puoi anche guadagnarci sul mercato. Faccio l'avvocato del diavolo e dico: mi scusi, però la BCE ha già deciso di fare acquisti senza limiti come percentuale e ha messo 750 miliardi, quindi garantisce la liquidità in primo luogo al sistema e anche al sistema bancario, perché lo spread è ulteriormente calato adesso a 160 punti e le banche italiane hanno molte obbligazioni italiane e le banche francesi molte obbligazioni francesi. E poi c'è il patto di stabilità sospeso. Allora uno potrebbe dire: avete già gli strumenti. Prima domanda e prima obiezione. Seconda domanda e seconda obiezione: altri paesi, penso a Hong Kong, ma penso anche a Trump negli Stati Uniti, hanno scelto per ora la strada dei cosiddetti helicopter money, cioè dare a tutti, lanciare i soldi dall'elicottero, mille dollari negli Stati Uniti, mi sembra mille anche ad Hong Kong, direttamente ai cittadini. Perché non la convince la prima obiezione e non la convince neanche la seconda? Beh, andiamo per ordine. Allora, la Banca Centrale Europea è indispensabile, ha per fortuna già nel suo portafoglio, diciamo così, l'eurosistema, il 20% del nostro debito, con queste operazioni salirà facilmente al 30% o anche di più, quindi quello è un debito che noi insomma abbiamo un po' congelato, quindi questa è già una cosa buona, perché il problema è cosa faranno i mercati del debito pubblico italiano, quale sarà il tasso di interesse che ci faranno pagare quando tutto questo sarà finito e saremo tornati ai tempi normali, perché la finanza di emergenza abbiamo capito come si fa e si fa così come abbiamo detto. Si tratta di allungare l'occhio e di dire: ok, ma tra un anno e mezzo, tra due anni, come si troverà l'Italia con 150-160% di debito pubblico sul PIL? Questa è un po' la domanda. Allora, come ripeto, gli strumenti dobbiamo immaginarli tutti possibili. Per esempio, un grande prestito patriottico, come si facevano durante la prima guerra mondiale. Potrebbe anche essere un grande prestito che lo Stato fa a livello come titoli molto a lungo termine, potrebbe essere 40 anni, potrebbe essere perpetuo. Questo è un possibile strumento. Altri strumenti potrebbero essere appunto che l'Europa emetta titoli europei di debito perpetuo. L'Europa emetta titoli, questo però penso che al momento non sia nelle carte, nelle intenzioni, eccetera. Quindi questo che sarebbero i coronavirus bond, corona bond a cui faceva riferimento il Presidente del Consiglio, cioè che non vincolino poi i paesi che attingono a queste risorse a essere di fatto commissariati. Sì, però quello può essere anche un titolo a più breve scadenza, insomma, però... No, ma io parlavo di una specie di o a fondo perduto o perpetuo, irredimibile, una cosa a 50 anni e quant'altro. Sì. Mi dica due cose al volo, professor Toniolo, prima di arrivare all'helicopter money. Ieri il professor De Aglio diceva: ma noi abbiamo 200 miliardi di dollari in oro. Sì. Siamo tra i paesi più, assieme a Germania e Francia, che hanno più riserve auree, che tra l'altro sono contabilizzate a un valore di carico di $40. Adesso l'oro vale all'once, vale $1,600 all'once, quindi le contabilizziamo molto meno. E potremmo dare quelle come garanzia, la convince l'idea? Parte di quello. Rivalutando l'oro, chiaramente, al prezzo attuale, non al prezzo che l'abbiamo comprato 30 anni fa, 40 anni l'abbiamo, fa. L'abbiamo fatto negli anni 70, si ricorda, no, lei era piccolo, non era nato, non lo so. Negli anni 70, per un prestito che ci ha fatto la Germania, nel 75-76, se ricordo bene, noi abbiamo dato l'oro in garanzia. Adesso però, trattandosi di una questione che noi dobbiamo risolvere in modo permanente, non vedo perché l'oro, che è un po' la base sulla quale si fondano le monete, tra l'altro sapete che l'oro ormai della Banca d'Italia è in gran parte nelle mani dell'Eurosistema, e quindi per far questo richiede tutto una serie di autorizzazioni. Okay. Ultima domanda prima di andare sul traffico: perché la convincono meno gli helicopter money, cioè Trump che dà 1200 euro a ogni americano e Hong Kong, cioè andare direttamente a mettere i soldi non alle aziende rinviando le scadenze fiscali o sospendendo le scadenze fiscali, perché in alcuni casi tu non hai fatturato, hai difficoltà a pagare, sospendendo i mutui, dando alle banche la possibilità di erogare veramente finanziamenti a tasso zero, e tutto questo ha un costo per lo Stato, per quello ci siamo i soldi, perché tu hai meno entrate fiscali, hai più soldi da spendere in agevolazioni fiscali, in detrazioni fiscali, in cassa integrazione e quant'altro, ti servono i soldi. Perché non la convince invece l'idea che questi soldi vengano dati direttamente, appunto paracadutati nelle tasche degli italiani? Perché costa molto e non prende di mira i settori di cui hanno bisogno, lo dà a tutti secondo una quantità unica, e questo potrebbe anche funzionare se la nostra crisi in questo momento fosse una crisi solamente da domanda, ma noi abbiamo una crisi da domanda più abbiamo le imprese che sono in difficoltà. Sì, esattamente, quindi io penso che le risorse dovrebbero essere mirate alle imprese che sono in difficoltà, subito fornire liquidità e poi sostenere i redditi, ma i redditi di chi in questo momento sta perdendo il lavoro. Se dessero 1500 euro a lei e a me, non credo che aumenterebbe molto la domanda. No, anche perché io per fortuna non sto prendendo lavoro, così come non lo sta perdendo per fortuna tutto il settore, per esempio, che lo abbiamo fatto come esempio chiaro, insomma, chi lavora nella grande distribuzione, anzi è sommerso di domande, anche parte nel settore alimentare, i consumi delle generi alimentari stanno andando molto bene, più 22%, è chiaro, nessuno può uscire, tutti mangiamo a casa e lì per fortuna in quei settori, cioè in tutta la filiera, non c'è una crisi, anzi. Allora io aggiungo, professor Toniolo, nel salutarla, che poi tra l'altro io ho il timore che se lei desse 1000 euro a me, oltre che non averne bisogno in questo momento perché non ho perso fortunatamente il lavoro, io potrei anche metterli da parte, perché se non mi fido del futuro non vado a spenderli. E quindi aumentiamo il risparmio, che è quello che in questo momento non desideriamo. Ok, grazie anche al professor Gianni Toniolo. Dopo il traffico andiamo invece a New York, perché c'è il G20 e soprattutto poi prima un G20 che ha mobilitato risorse, adesso cerchiamo di capire come, per 5.000 miliardi di dollari, in attesa del Consiglio europeo di questa sera. Focus Economia. Allora, se qualcuno mi continua a chiedere commenti su Draghi, ma sapete che io adoro Draghi, lo adoravo quando era la BCE, ma basta leggere il pezzo la lettera Financial Times per capire, insomma, che la differenza tra Draghi e Lagarde non è estetica. Allora, Riccardo Barlami in collegamento da New York, buonasera Riccardo. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Riccardo, il G20, ho visto, inietta 5 mila miliardi nell'economia mondiale, e tra l'altro Xi Jinping, il leader il cinese, ha chiesto di tagliare i dazi per far ripartire l'economia. Allora, intanto va detto che il là, secondo me, l'ha dato anche molto Draghi con questo intervento che tu ricordavi, sì, dove ha detto a tutti: guardate bene che qui si tratta di trovare una spanna sopra tutti. Esatto, siamo in guerra, e quindi lui ha detto delle cose che diceva Keynes negli anni 30, quindi c'è poco da fare, il debito deve sostenere la crescita mondiale. Oggi c'è stato, cioè, o meglio, G20, il debito pubblico deve assorbire i debiti privati, ancora. Assolutamente. E come dicevi tu, lo stanno facendo già gli stati, però finora era stato fatto in modo, diciamo, spot, ognuno ha fatto per sé. Gli Stati Uniti hanno la presidenza del G7, il gruppo dei sette, invece il G20 la presidenza è in questo momento in mano all'Arabia Saudita, che a fine anno organizzerà il consueto vertice. E c'erano un po' di paure, di perplessità, perché sappiamo che l'Arabia Saudita è da un anno o più al centro un po' delle attenzioni per il modo con cui, poco democratico, avvengono alcune cose anche gravi in quel paese. E il vertice è stato presieduto dal vecchio re Salman, che ha 80 anni, che da 2 anni non si vedeva, quindi è riapparso da poco in pubblico, e non è stato invece seguito da Bin Salman, che è il principe ereditario, che è quello che un po' prenderà il suo posto. La cosa interessante è che, appunto, gli stati, diciamo, del G20, c'è, cioè, anche l'Italia, che peraltro prenderà la presidenza a fine anno, a dicembre prossimo, e hanno già messo in campo 4.000 miliardi ognuno di piani di salvataggio, e a questi si aggiungono questi 5.000 miliardi, e quindi soprattutto c'è un impegno della comunità internazionale che non è poca cosa, come dire, non facciamo ognuno per conto nostro. E poi ci sono queste indicazioni, intanto per cercare un'assistenza comune, un vaccino, trovare presto un vaccino, per cooperare. La cosa interessante di questa storia che sta venendo fuori, di questa epidemia, pandemia, che dalla Cina si è spostata all'Europa e adesso, ahimè, si sta spostando il centro negli Stati Uniti, è che qualcuno ha scritto qui che ricorda il modo con cui gli Stati Uniti non stanno guidando questa partita. Ricorda la storia del canale di Suez negli anni 50, quando la Gran Bretagna, perdendo il canale di Suez, ha perso di fatto non è più stato un impero. Sì, adesso mi rendo conto che noi stiamo ragionando di emergenza continua, però è vero che è anche un ragionamento, quando avremo modo di parlare fuori dall'emergenza, sull'opportunità che sta perdendo Trump nel mondo occidentale nel farsi nazione guida. Allora, abbiamo detto che il piano Marshall in questo momento non è pensabile, perché avvenne nel 46, ma c'erano gli Stati Uniti non bombardati, con le fabbriche aperte, anzi, che erano al picco del ciclo produttivo, e quindi fu più facile ricostruire Germania, Italia, in parte anche Francia e Gran Bretagna con il piano Marshall, cioè soldi a fondo perduto. Però la guida politica in questo momento di un presidente che ha sempre fatto dell'isolazionismo il suo punto di forza, delle guerre coi dazi. Tant'è che qualcuno mi fa notare, Riccardo, che la Cina, che sta facendo una grande campagna, dopo avere delle responsabilità enormi, di comunicazione, ma le mascherine, gli aiuti, così, una campagna di immagine molto forte per dimostrarsi meno brutta e cattiva dopo il casino che ha combinato tenendo nascosti i contagiati. L'America? È proprio così, la Cina ci manda le mascherine, manda i medici che ci dicono come si fa, e l'America per ora ha queste due realtà, per cui da un lato c'è il presidente che dice, quando viene consigliato dai suoi consiglieri politici, guardate che a Pasqua riapriamo le chiese, dall'altro ci sono gli scienziati che gli dicono non è così, occhio che finiamo male se davvero non ci diamo una mossa. E in questo ci sono tutti i governatori che gridano, che lanciano questi allarmi, perché qui in questo paese non ci sono ancora i respiratori. Io ho visto i poliziotti a New York che girano, ci sono, ieri il dato erano 200 poliziotti malati, girano senza mascherine, quindi come dire, le chiacchiere stanno a zero in questa storia qua. New York che ha avuto 100 morti in più in 24 ore, visto De Blasio dire rischiamo che metà della popolazione sia contagiata. Su questo, giusto per chiudere, il rapporto con diciamo, l'epidemiologo di riferimento statunitense, Anthony Fauci. Com'è? Perché anch'io sono rimasto sorpreso da Trump, che l'altro ieri ha detto ma noi 2 settimane poi riapriamo tutto, perché non può... Lui è uno scienziato e quindi lui ha subito precisato sì, d'accordo, speriamo, ma dove ci sono nei posti dove c'è il focolaio non possiamo garantire questo, non succederà, perché non può dire diversamente. E così oggi ci sono i dati, appunto l'avrei ricordato, sulla disoccupazione, che sono record. Il precedente record era 600.000 richieste nel 1982, oggi si è arrivati a 3,3 milioni una settimana. Qui negli Stati Uniti la gente non ha il welfare che c'è in Europa, e si dice che tu sei, ci sono delle categorie che sono a uno stipendio dalla strada, per cui non so, tutti i camerieri, tutta la gente che vive con le paghe settimanali rischiano di diventare homeless, insomma, in questo senso, in questo senso gli assegni buttati dagli elicotteri possono aiutare. Possono in quel caso lì, possono aiutare, io sono più scettico sul caso italiano. Comunque, grazie anche a Riccardo Barlami in collegamento da New York, andiamo sul GR24. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Dunque, sentiamo la Protezione Civile, comunque i dati sono appena stati diffusi. Un attimo, apriamo il microfono. Contiamo di dare continuità all'invio di medici. Vabbè, nei questa giorni è la parte che riguarda i dispositivi. Allora, dunque, ci sono 4.492 contagiati in più rispetto a ieri, e che non è una buona notizia, perché dopo quattro giorni da sabato in poi di calo continuo nei contagiati, abbiamo fatto domenica 3.950 in più, lunedì 3.780, ieri 3.600, martedì 3.600, mercoledì 3.400, oggi purtroppo sono 4.492, con un aumento dell'8%, mentre l'aumento era stato del 6% ieri, del 7% martedì, dell'8% lunedì. E il contributo, si fa per dire, più forte lo dà la Lombardia e soprattutto Milano. Perché lo dico? Perché in Lombardia ci sono stati 2.543 casi in più e 387 persone decedute. Nello specifico, a Milano c'è stato un forte aumento dei contagiati. L'assessore Gallera ha detto potrebbe essere per i molti tamponi in più effettuati. Però mentre negli ultimi due giorni nella provincia di Milano c'erano stati 373 casi in più due giorni fa, 375 ieri, oggi ve ne sono stati, Milano provincia, 848, più del doppio. È un dato molto forte, ha detto appunto Gallera, che portano il totale a 6.922 nella provincia di Milano. Quindi da quello che vedo dai dati i morti sono aumentati in Lombardia di 387. Da quello che vedo dai dati, appunto, l'aumento a 4.492 è dovuto principalmente alla Lombardia e principalmente, diciamo, come apporto, diciamo così, a Milano. Adesso aspetto anche gli altri dati definitivi. Diciamo che tutti speravamo nel vedere confermato un trend in calo che va avanti, appunto, da, come percentuale di aumento da giovedì 19, perché giovedì 19 erano più 16, poi venerdì 20 più 14, sabato 21 più 13, domenica 22 più 9, lunedì 23 più 8, martedì 24 più 7%, ieri più 6%, oggi purtroppo siamo tornati a un più 8%. Non ho ancora il dato sui decessi, più 9% i decessi. Adesso sto cercando di avere anche il numero dei decessi complessivi. trovarlo. Per fortuna ci sono allora, i decessi complessivi sono 662 in più, che sono meno di ieri, che erano 683, e del giorno prima 743, però sono più di lunedì e di domenica. 600 da questo punto di vista e 62 sono anche più di domenica, sì, cioè praticamente vabbè. No, questo vuol dire che per carità, insomma, c'era stato poi il picco di decessi anche ricordo martedì 24 con 743. Però questo vuol dire che appunto sì, c'è una tendenza nell'aumento dei contagi a essere più ridotto, però è ancora presto per dire. Ripeto, da quello che stiamo leggendo è soprattutto la Lombardia in questo momento e la provincia di Milano a contribuire in questo modo. Quindi il numero complessivo dei contagiati, che però conteggia anche quelli che, che nel frattempo sono guariti, ahimè chi è deceduto, è di 80.000 in questo momento, quindi secondo me col dato di oggi stiamo superando il dato, ammesso che sia quello vero, cinese, che è di 83.000 contagiati in tutto. Allora, per quello che riguarda i messaggi che stanno dalla borsa, quello che riguarda i messaggi che stanno arrivando, eccoci qua, vedi, a Brescia hanno superato i 1.000 morti. Il capoluogo è il comune più contagiato, seguito da Orzinuovi con 157 casi. Vabbè. No, sì, vanno aggiunti i morti in Val Camonica, vabbè, comunque. Allora, la borsa oggi, lo spread in calo, la borsa è chiusa con un più 0,70%, Parigi più 2,50%, Francoforte più 1,30%, Londra più 2,20%, Dow Jones più 4,26% in questo momento, Finecobank più 9,16%, Buzzi più 7,25%, Azimut più 7, Leonardo più 6, Tenaris più 5,5 come banca mediolano, il 5% lo guadagna Unipol, il 4,60 Poste Italiane, il 4% Banca Generali, il 3,70 che CNH, il 3,50 Exor e Recordati, il 3% rialzo di Atlantia, il 2,70 quello di Mediobanca. Telecom Italia perde il 5%, Amplifon meno 4,30, Ferragamo meno 3, Pirelli meno 2, Biper pure, di Assorin pure, Unicredit cede l'1,5%. Allora, vabbè, sì, qualcuno mi sta scrivendo, guardi che probabilmente conta anche il numero di tamponi effettuati, e quello che sta dicendo, ha detto poco fa Gallera, l'assessore regionale al welfare della regione Lombardia, e cioè che probabilmente l'aumento nella provincia di Milano, che è quello più significativo in questo momento, più 800 contagiati, adesso cerco il dato definitivo, è dovuto, secondo Gallera, probabilmente anche all'aumento del numero di tamponi. Allora, qualcuno continua a chiedermi l'aggiornamento, cioè perché non, il ragionamento fatto prima sull'helicopter money piuttosto che i soldi. Allora, ripeto, il tema di dare i soldi direttamente ai cittadini, non ti garantisce che questi soldi vengano spesi, perché se uno ha incertezza sul futuro li tiene in banca, li tiene nei risparmi. B, noi avremo bisogno di dare soldi ai settori produttivi, sì, soprattutto quelli più colpiti, ci mancherebbe, ma questo non vuol dire dare soldi all'impresa tout court, vuol dire che se tu, per esempio, finanzi o continui a rifinanziare la cassa integrazione in deroga per i prossimi mesi, permetti il rinvio delle scadenze fiscali o addirittura sospendi alcuni pagamenti, penso ai contributi e quant'altro, permetti alle aziende di sopravvivere e di mantenere anche gli occupati. E dall'altro è chiaro che però ne hai un danno come entrate fiscali, perché rinunci a un insieme di entrate fiscali, o ti sostituisci tu per i contributi ai lavoratori, oppure dai anche delle forme di incentivazione, per esempio per le spese, diciamo prima, per il turismo, la possibilità di scaricare fiscalmente alcune spese in modo da incentivare alcuni settori più in ginocchio. Ecco, tutto questo ha un effetto poi sui singoli cittadini, perché il lavoratore che non perde il posto di lavoro chiaramente ha un effetto sulla vita di ognuno, così come la sospensione del mutuo ha un effetto sulla vita di ognuno, però va a, diciamo, dare una boccata, andrebbe a dare una boccata di ossigeno ai settori colpiti, non al singolo individuo che poi è libero di scegliere cosa fare di quei 1.000 euro, ovviamente. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul traffico, poi vediamo di capire, torniamo, me l'hanno chiesto in molti ascoltatori, di tornare a collegarci con New York, con Shanghai, dove c'è il nostro mitico Saro Capozzoli, che ci ha raccontato a gennaio, quando a noi sembrava tutto assurdo il fatto che fossero chiusi in casa, non potessero uscire, mangiassero solo a domicilio, purtroppo in realtà di tutti i giorni oggi. Ma anche perché oggi ha ripreso l'attività in varie parti della Cina, non solo nell'Hubei, dove è tornata la libertà di movimento, però devono avere il codice verde, quindi devono avere sul loro telefonino il QR che gli garantisca che possono circolare. E poi però ci sono anche, per esempio, il lento ritorno alla normalità in città come Shanghai, che non era l'epicentro ma era chiusa. Ora lo ascolteremo dopo il traffico, perché un conto è parlare di ritorno alla normalità, forse dobbiamo abituarci anche noi a questo. Ieri raccontavo del modello israeliano dei semafori arancione, giallo e verde, sia sulle attività produttive sia sullo spostamento e la circolazione delle persone. Sentiamo cosa vuol dire un ritorno alla normalità a Shanghai dopo il traffico. Focus Economia. Qualcuno contesta, infatti, noi i soldi devi dare alle famiglie, non all'azienda, ma guardate che se l'azienda mantiene gli occupati, che sia un bar, che sia un ristorante, che sia un'impresa manifatturiera, di fatto stai mantenendo i soldi alle famiglie. Ho solo detto che in quel caso è la certezza, i soldi non sono illimitati, quindi dovrai decidere, no? Anche dopo questi provvedimenti di L marzo, di L aprile, che sono tampone, cosa fare, ammesso e non concesso che si arrivi a un accordo a livello europeo su un fondo di garanzia che non diventi un cappio, un nodo, un cappio al collo. Non saranno illimitati, quindi tu puoi decidere se fare l'americana 1.200 euro a tutti, oppure se mantenere in piedi i settori produttivi. Se il bar non può pagare l'affitto e devi pagarlo tu, devi dare la sospensione, devi integrare soldi con soldi pubblici, mantieni in vita il barista, chi lavora con lui, se i suoi dipendenti sono in cassa integrazione, riesci a mantenere la cassa integrazione straordinaria, mantieni in vita il rapporto di lavoro e dai anche un minimo di salario che non è il 100% ma è tra il 60 e il 70%, quelli sono soldi pubblici, non è che arrivino da altre parti. Allora, Saro Capozzoli, che ci ha raccontato prima da Shanghai quando ci sembrava allucinante, poi ci ha raccontato anche come un certo ritorno alla normalità a Shanghai. Lei abita lì da più di 20 anni, ha una società che aiuta le imprese italiane a entrare nel mercato cinese. Buonasera. Buonasera a tutti. Senta, Capozzoli, ho visto che a Shanghai, al di là della provincia di Hubei, sta tornando un po' di normalità. Aprono 200 cinema, per ridurre il rischio di contagio il pubblico sarà chiamato a presentare i propri codici sanitari e a lasciarsi misurare la temperatura all'ingresso, indossare le mascherine durante lo spettacolo. L'intervallo deve durare almeno 20 minuti per lasciare il tempo necessario alle operazioni di disinfezione dentro la sala cinematografica. Poi, se ho ben visto, anche sui ristoranti c'è una certa apertura. Mi può spiegare però che cosa vuol dire apertura? Cioè, intanto voi avete il codice con cui girare, perché quel codice ti serve anche per entrare banalmente in una gelateria, ma poi questo non vuol dire che le mascherine continuate a portarle e tutti gli altri elementi di la distanza viene seguita. Prego, Capozzi. Sì, certo. Le mascherine sono sempre state una costante, ma anche in tempi normali, diciamo nei posti affollati, gli asiatici, i cinesi, ma anche i giapponesi, no? Anche qui in Italia andando, cioè in Italia andando in giro per turismo, spesso si volentieri si vedevano gli asiatici con queste mascherine. In Cina adesso a Shanghai, qui a Shanghai è un must, ma anche un qualcosa che il cinese non andrà mai fuori senza avere una mascherina. Nei ristoranti ci si siede un po' distanti, ci sono proprio le sedie sono più distanti, i ristoranti piccoli ad esempio non sono ancora aperti, ecco, perché non c'è la logistica. E ci sono i controllori della sicurezza, cioè ogni luogo pubblico ha comunque una persona che fa il controllo del bollino verde, diciamo, no? In modo così uno può entrare. Ecco, questo è un qualcosa di costante nel cinema, appunto, con la mascherina. E una cosa interessante che ho notato, c'è stato un boom nelle ultime 2 settimane di iscrizioni alle palestre, probabilmente dopo quasi 2 mesi di clausura la gente ha voglia di muoversi. Sì, ho visto anche un boom di divorzi, adesso vorrei buttare un po' di non leggerezza, perché non c'è nulla di leggero in una separazione, però ho visto che insomma anche l'obbligo di permanenza, di convivere, ha creato anche tensioni di carattere familiare in Cina, no? Sì, purtroppo sì, si registra questo dato, è un po' triste, comunque così. La convivenza forzata ha portato anche a scoprire differenze di abitudini e così. Senta, no, una cosa invece mi interessa, però voi avete questo sistema che insomma da più parti si chiede, andando qua si sta ragionando molto sul controllo alla coreana, alla sudcoreana, sugli spostamenti, però voi avete, se ce lo puoi rispiegare, questo QR che permette, anche adesso che avete allentato, senza QR tu non entri, QR che deve darti l'autorizzazione a girare, non entri da nessuna parte, ho capito bene? Sì, certo. Ma come funziona? Ma diventa, allora, praticamente se si è una zona diciamo sicura, si ha questo QR verde, un bollino verde si chiama. Nel momento in cui nel tuo condominio, nella tua zona o vicino a te c'è qualcuno che viene trovato col virus, con l'infezione, tutte le persone attorno passano a rosso, quindi c'è una autoesclusione di quella zona automaticamente. E quindi è un modo anche per individuare anche i contagiati o comunque i possibili contagiati, e per poter limitare gli accessi ai luoghi pubblici. È un po' come un self diciamo sicurezza automatica, no? Che così scatta nel momento in cui c'è un problema. È il modo con cui loro sono riusciti adesso in 2 mesi a uscire fuori dal problema, anche se la novità è questa: da oggi praticamente la Cina ha deciso di escludersi, cioè, dal mondo. Chiuse tutte le frontiere, ho avuto questo annuncio. Tutti gli stranieri che per qualche motivo sono rimasti fuori durante il Capodanno cinese, per motivi di così vacanze eccetera, sono rimasti fuori, non possono più rientrare. Tutti i visti rilasciati prima di oggi sono stati annullati, ma proprio perché gli unici casi che si sono verificati negli ultimi giorni sono importati. Quindi questo vuol dire che non si può più entrare in Cina, ho capito bene? No, hanno anche limitati i voli, un volo a settimana per paese. Ma questo vale per far rientrare i cinesi in Cina, immagino, perché se io non posso più avere visto? No, questo qui è limitato proprio agli stranieri, il visto è proprio per il visto, perché adesso per i cinesi è una cosa nuova, fresca di oggi, adesso bisogna vedere com'è l'applicazione, perché dato che hanno visto che ci sono tanti casi in giro per il mondo, il terrore dei cinesi è quello di ricreare qualche nuovo focolaio, che ci vuole poco per farlo, quindi loro preferiscono adesso, c'è il mercato interno comunque che sta esplodendo, e quindi hanno, diciamo, le aziende stanno viaggiando veramente a numeri interessanti. E un'altra cosa di colore, oggi si è corsa la Panda Marathon, a Chengdu, dove hanno partecipato 1000 atleti, tutti con la mascherina, proprio per far vedere diciamo che c'è un primo passo. C'è un tentativo di tornare a una normalità, e così rispondo anche all'ascoltatore che mi dice: ma perché ci occupiamo della Cina? Perché lì è nato tutto, lì si sono mossi per primi, lì hanno avuto, e cerchiamo di capire poi cosa significa anche un ritorno alla normalità. Io nel ringraziare Sero Capozzo, vorrei lasciarvi con una cosa che non facciamo mai, con una canzone. Oggi appunto purtroppo sono tornati a crescere i casi, che non vuol dire che si debba buttare via ogni speranza, ogni tanto la musica serve, ne abbiamo scelta una che a noi piace particolarmente, il grande Vasco. E noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Senti che bel vento, non basta mai il tempo, domani un altro giorno arriverà. Voglio trovare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.